di cantare un po' la mia vita, momenti vissuti qua e là. Non è che sia niente di tanto speciale, mi va. I miei 16 anni, la fuga da casa, i tanti problemi, l'età. Mia madre diceva, ma questo ragazzo che fa? Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo mai. Un giorno d'estate perdevo un amico, ricordo che viene, che va. La gente diceva, le moto veloci, si sa. La mia prima donna diceva che amare significa dire mai no. Li aveva già letti i libri d'amore, io no. Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo mai, mai, mai, mai, mai, mai. Io non mi arrendevo mai, testardo tanto che vivevo sempre in mezzo ai guai. Oh, oh, io avevo i sogni miei e ci credevo, e poi non mi arrendevo.